Recentemente, parlando del fatto che in un giornale fra titolo e testo c'è spesso una preoccupante disparità, abbiamo notato come altrettanto spesso nel titolo si giochi al rialzo rispetto ai contenuti che poi si trovano nel testo. Quel che nel testo veniva descritto come un dibattito sereno e amichevole, nel titolo veniva definito dibattito infuocato. Quel che nel testo era un esplosivo cercato dalla polizia, nel titolo era diventato addirittura un esplosivo trovato dalla polizia. Diciamo che una vis accrescitiva, una volontà enfatizzante figlia di un grande spirito ballistico ha preso la mano di chi fa il giornale. Un caso fresco fresco mi fa tornare in argomento per approfondire le considerazioni già fatte, peggiorando tuttavia la diagnosi. Nella pagina della scienza del Corriere della Sera ho trovato un titolo: rane giganti e girini carnivori, con un occhiello che prometteva ghiotte e inedite informazioni sull'avidità sessuale delle raganelle del Costa Rica. Fra questi titoli e il testo, quanto a coerenza, c'era qualcosa che non andava. Punto primo: di rane giganti vere e proprie non se ne parlava. In verità si parlava di girini che diventavano più grossi degli altri, il che non è esattamente la stessa cosa. E perché diventavano più grossi degli altri questi girini? Perché si cibavano di altri girini. Praticamente radicalizzavano il vecchio proverbio del chi tardi arriva male alloggia, perché lì chi tardi arrivava, o meglio chi tardi si schiudeva alla vita, non arrivava più. Ovvero non faceva neppure in tempo a schiudersi alla vita, che il fratellino precoce se l'era già pappato. Eccoci al secondo punto. Girini cannibali, non girini carnivori. L'informazione contenuta nell'articolo, correttamente, si riferiva a girini cannibali, ma il titolista, in questo caso, li aveva ridotti a carnivori. Punto terzo. L'avidità sessuale delle raganelle del Costa Rica. Leggi l'articolo e l'unica informazione che ne cavi più o meno a proposito è la seguente: dopo le grandi piogge i maschi escono a far quattro passi e solo dopo un po' arrivano anche le femmine, che volenti o nolenti sono in numero nettamente inferiore rispetto ai maschi. Dice l'articolo che è stato osservato in più di un caso l'accerchiamento di una femmina da parte di una dozzina di maschi. Tutto lì, l'accerchiamento. E questo è sufficiente ad indurre un giornale serio e prosopopeico come il Corriere della Sera, pagina della scienza addirittura, a parlare di avidità sessuale delle raganelle del Costa Rica, un caso di ignobile e disgustoso maschilismo. Se al posto delle raganelle del Costa Rica ci fossero state le ragazze di San Frediano o le giornaliste della RAI o le educande di Sorrento, voglio vedere se sarebbe stato sufficiente un loro accerchiamento da parte dei maschi della loro tribù per parlare di una loro avidità sessuale. Ma lasciando da parte i razzismi congeniti dell'umanità colta, rimane il fatto che nello stesso titolo abbiamo riscontrato due procedure che, in un modo o nell'altro, sembrerebbero contraddittorie. Le raganelle nel testo subiscono l'aggressione dei maschi e nel titolo diventano sessualmente avide, mentre i girini nel testo sono cannibali e nel titolo diventano carnivori. C'è un crescendo e c'è un diminuendo. Il contrasto, se ci si pensa, ha tuttavia una sua triste logica. Ci sono cose che la chiacchiera colta e salottiera consente e ci sono cose che la chiacchiera colta e salottiera non consente. Nell'ipocrita morale della nostra quotidianità, sul cannibalismo vige un tabù che non vige sullo stupro. L'inversione dell'informazione in entrambi i casi soddisfa l'esigenza di chi ha distribuito valori nei secoli dei secoli. la speculazione sul sesso degli animali, cui ci piace far dire qualsiasi cosa che accomodi a noi, è di questi tempi irrefrenabile. Perché non contento di aver scoperto l'avidità sessuale delle raganelle del Costa Rica, il Corriere della Sera pochi giorni dopo ha titolato "Sesso sfrenato per le coccinelle". Sesso sfrenato per le coccinelle. Si trattava di coccinelle anglosassoni che nelle tre ore dedicate al rapporto sessuale trasmettevano un non meglio specificato parassita al tenace partner e, colmo della sfrenatezza, continuavano a ingozzarsi di cibo. Qui il modello dista parecchio dall'umano. Mai pensato di categorizzare nessuna come sessualmente sfrenata perché durante il rapporto sessuale, che so, si fa pane e mortadella o una bella spaghettata alla matriciana. Anzi, nel modello umano si interpreterebbe la cosa come frutto di palese disinteresse. Animali che vai, sistemi interpretativi che trovi.